Allora, Maledetti cantautori è un libro che nasce dall'omonimo spettacolo musicale che hai prodotto tu, come scrittore e produttore Nicolas Ciuffelli, appunto, che Sì, abbiamo sì. ai nostri microfoni, ed è un intenso racconto illustrato di 20 celebri artisti che hanno un po' segnato la musica dagli anni 60 fino ai giorni nostri, possiamo dirlo. E in qualche modo hai cercato di sfatare questo mito dei cantanti intoccabili e far emergere le loro fragilità. Allora, in che senso le loro fragilità e da dove nasce l'idea di parlare di questi artisti? In realtà dove nasce? Nasce da Melville, perché ho fatto un esperimento del genere con un altro progetto che ho in essere che si chiama Racconti delle Nebbie, in cui ho raccontato alcune cose di Melville, diciamo, ovviamente interpretando lo mondo, molto lavorando, romanzando sul romanziere, diciamo. E mi è piaciuto, senza mai nominarlo ovviamente, vedendo il lato umano, vedendo più forse le zone d'ombra che le luci. Mi piacciono molto le biografie e semplicemente a un certo punto ho iniziato a scrivere questi racconti su artisti che ascoltavo particolarmente, quindi non è che sarà una pianificazione a tavolino, mi piace scrivere, mi piace la musica, mi piacciono le biografie, è venuto abbastanza naturalmente tutto insieme. Poi leggendoli ad alta voce mi sono reso conto che funzionavano molto bene. Allora, lo spettacolo è stato fatto veramente in pochissimo tempo, devo dire, anche i racconti hanno avuto una gestazione relativamente breve, è stato tutto molto particolarmente spontaneo. È nato un po' quindi in modo totalmente naturale, senza essere troppo programmato, diciamo. Forse sono Sì, questi i assolutamente. lavori migliori. Ora parliamo del titolo. Sono curiosa di sapere cosa significa il termine maledetti, cantautori, e che concetto volevi far trasparire. Beh, questo in realtà è un po' anche un gioco di parole, perché sai, sono tutte personalità che, allora, innanzitutto non sono tutti cantatori, sono artisti del mondo della musica, ma cantautori nel senso stretto del termine, specie nel senso che diamo noi in Italia, lo sono abbastanza in pochi. Poi se guardiamo il termine anglosassone cambia tutto quanto, ovviamente, no? Perché songwriter non coincide con cantautore, sono, diciamo, si muovono in campi semantici simili ma non sovrapponibili. E maledetti perché sono accomunati più o meno tutti da vicende della vita abbastanza drammatiche a discapito di un talento enorme. Diciamo lì c'è è un po' un gioco di parole, perché maledetti cantautori, nel senso che io parlo di artisti che si sono approcciati al songwriting anglosassone, e però io già avevo l'idea del live, quindi sapendo che avrei portato dei cantautori con me, un po' era anche un po' prendere in giro bonariamente le persone che sarebbero state in tour poi con questo spettacolo. Quindi è un po' anche un inside joke, no? Sai, quelle cose che sì. E tra questi artisti, tra virgolette, maledetti, qual è quello che per te ha più valore e più importante? Ma questa è una domanda da $1 milione, perché sai cos'è? Allora, esempio c'è Jeff Buckley, prendiamo lui perché, a parte che sta anche in copertina, cioè, Jeff Buckley è uno che aveva un potenziale enorme, sia da un punto di vista vocale, ma ovviamente compositivo. Ed è questo potenziale quello che è rimasto forse più inespresso di tutti. Bene o male, quasi tutti quelli che affronto hanno avuto almeno un percorso, anche il padre di Jeff, Tim, comunque sì, ha pubblicato molti album, tante delle sue cose più belle ci sono state, ne abbiamo goduto. Invece di Jeff Buckley abbiamo un album ufficiale, un disco di provini e qualche live che è stato preso qua e là. E quindi Jeff Buckley, da un certo punto di vista, no, c'è quella cosa del chissà cosa sarebbe diventato veramente, chissà cosa, dove sarebbe andata la sua musica, perché già il secondo album era una sterzata notevole. Quindi da un certo punto di vista sono, diciamo, forse è quello che artisticamente mi affligge di più. Da un altro lato, per motivi completamente diversi, invece c'è Bertrand Cantat, la voce dei Noir Désir, insomma, che invece è uno dei pochi ancora viventi tra quelli che tratto e che ha avuto delle vicende veramente terribili, cioè a partire dall'omicidio della sua compagna dell'epoca, la Trintignant. L'ho detto sicuramente male, se c'è qualche francese all'ascolto, penso che. Vabbè. Ecco, lui mi colpisce da un punto di vista umano, perché sì, è un uomo che si è macchiato di omicidio, che è appunto un omicidio colposo, non intenzionale, in cui c'è stata una rissa tra i due. Non c'è alcun tentativo né volontà di giustificazione in queste mie parole, capiamoci. Però che una volta scontata la sua pena, lui continua ad essere ostracizzato, continua a vivere una situazione che non gli consente più neanche, anche se lui si è sempre dichiarato colpevole, ha chiesto il massimo della pena e tutto quanto, la sua vita in qualche modo è finita pur lui continuando a vivere. E allora questo un pochino mi porta a riflettere su qual è lo scopo della punizione, se un debito con la giustizia possa essere mai realmente saldato, cioè diciamo apre anche spiragli di riflessione un po' differenti. Certo. Beh, sicuramente è una questione molto interessante. E invece riguardo alla tua collaborazione nello spettacolo musicale, com'è stato collaborare con artisti quali Riccardo Tesio o De Niro? Com'è stata questa esperienza? Prima di rispondere a questa domanda faccio solo un appunto, perché magari chiarisco un concetto che a volte che ci tengo molto a precisare, cioè che il libro non è un libro di biografia, cioè sono degli spunti che io prendo biografici, alcuni certo. elementi, e poi li romanzo, quindi quello che poi c'è è il lavoro di fantasia, cioè non è la biografia, è il Bignami diventa biografia, ecco, questa cosa non è, quindi se qualcuno pensa di trovare una sintesi della vita di questi artisti, non c'è. Io faccio degli istantanei di alcuni momenti della loro vita lavorando di fantasia, anche se su fatti realmente accaduti. Sul discorso live, quello che è successo è che io ho proposto immediatamente lo spettacolo a Davide Combusti, De Niro, perché vabbè, siamo amici da tanti anni e volevamo fare qualcosa insieme, e quindi è venuto anche lì spontaneo, ci siamo visti, io mi ero imparato un paio di questi monologhi a memoria, perché poi sulla trasposizione qualche palcoscenico diventano tutti dei monologhi musicati, c'è una grande interazione tra musica e parola, e poi ovviamente una volta che io termino questo racconto, che ha più un recitato che un cioè sono molto distante dal reading, e poi viene eseguito uno dei brani più iconografici dell'artista in questione. È iniziata per gioco anche lì con Davide, diciamo, abbiamo detto vabbè, vediamo come va, facciamone alcuni, poi ne sono arrivati tantissimi altri, e siccome a me piace molto circondarmi di belle persone, ma soprattutto insomma qualora le circostanze lo permettano di sperimentare, ho deciso di creare una sorta di collettivo aperto, quindi non so, abbiamo avuto appunto Riccardo Tesio, chitarra de Marlene Kunz, Cristiano Volano, voce e altra chitarra de Marlene Kunz, così come Umberto Maria Giardini, Molteni, Nathalie, Nicola Roncea, insomma Eugenio Rotondi, Pit Coccato, veramente abbiamo avuto un ensemble notevole, ed è stato facilissimo da un lato perché tutti quanti avevano di base l'amore per questi artisti che io in qualche modo porto in scena. La predisposizione d'animo di ogni singolo artista che ha lavorato dentro Maledetti Cantautori è stata la migliore possibile, e devo dire che poi legandosi molto ai personaggi hanno portato delle interpretazioni fantastiche. Cioè noi abbiamo degli spettacoli con dei live registrati che io quando li ascolto rimango veramente, no? Cioè dico caspita, cioè non, a parte che un paio di volte anche sul palco abbiamo fatto un concerto a Benaus in Val di Susa, abbiamo fatto un bel tour alla fine quest'estate, sì, nonostante i presupposti fossero abbastanza difficili, sì, è stato un tour un po' schizofrenico, nel senso che capito, magari data al sud il giorno dopo, data al confine con la Svizzera, cose del genere, però ecco, però è stato un tour bello, un tour con spazi molto grandi, tanti sold out, tutto è sempre stato sempre rispettato, la normativa al Covid è stata sempre rispettata, però cioè, c'era tanta voglia sia di suonare che di avere poi la fruizione della musica e del teatro, qualunque cosa insomma noi facciamo sul palco.